prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Anche Papa Francesco ha invitato alla preghiera, a ricordare nella preghiera le popolazioni colpite dal sisma di un anno fa. Un evento che ha messo a dura prova la popolazione dell'Emilia-Romagna, soprattutto, ma ha fatto sentire i suoi effetti in Lombardia e in Veneto. Ci sono varie iniziative di cui parleremo tra poco, iniziative in programma nei prossimi giorni organizzate dalla Caritas. Come sapete, lo ha raccontato la cronaca, lo raccontano i fatti, la rete di solidarietà in questi casi si attiva subito, in qualsiasi caso di emergenza, a qualsiasi latitudine questo succeda. Ricorderete che anche Papa Benedetto era stato in visita qualche settimana dopo il sisma a fine giugno. La Chiesa vi è vicina, vi sarà vicina con la sua preghiera, aveva detto, e con l'aiuto concreto delle sue organizzazioni, in particolare della Caritas, che si impegnerà anche nella ricostruzione del tessuto comunitario delle parrocchie. E così è stato, ne abbiamo già parlato in altri appuntamenti. C'è stata una raccolta fondi il 10 giugno del 2012, raccolta in tutte le parrocchie nella messa domenicale di quel giorno, oltre 10, quasi 11 milioni di euro le offerte pervenute alla Caritas Italiana per le attività di ricostruzione e sostegno alle popolazioni colpite, a cui aggiungiamo i 3 milioni che erano subito stati stanziati dalla CEI nella prima fase di emergenza. Molte le risposte da dare evidentemente nell'immediato, ma anche nel lungo periodo, a ciascuna realtà su un territorio molto ampio come quello che è stato colpito dal sisma. In alcuni dei comuni maggiormente colpiti sono stati realizzati 17 centri di comunità, delle strutture polifunzionali in cui si possono svolgere attività generiche ma anche liturgiche, sociali e ricreative in quattro dimensioni, dai 150 ai 330 metri quadri, in riferimento anche alla popolazione e al numero delle parrocchie coinvolte. 9 di questi centri sono già stati realizzati. Tra giugno e luglio è prevista l'inaugurazione di altri 4. Il 2 giugno a Calto, nella diocesi di Adria Rovigo, siamo quindi in Veneto. Il 16 giugno a Vigarano Mainarda, diocesi di Ferrara Comacchio. Il 30 giugno a San Felice sul Panaro, arcidiocesi di Modena-Nonantola, il 7 luglio a Mirandola, nella diocesi di Carpi. E inoltre c'è stato anche l'incontro dei giovani in servizio civile. Il 12 marzo quest'anno si è svolto proprio a Mirandola, uno dei comuni terremotati. Fin dai primi giorni sono state moltissime le offerte di disponibilità, volontariato da tutta Italia e da tutte le organizzazioni, Caritas in primis, ma non solo, penso agli alpini, a tutte le altre organizzazioni benefiche attive nel territorio. La Caritas Italiana poi ha avviato sul territorio i gemellaggi tra le regioni ecclesiastiche italiane e le diocesi colpite dal sisma, coinvolgendo 185 parrocchie e 17 zone pastorali. Ogni delegazione regionale ha fatto varie visite nelle zone gemellate, incontrando i parroci, gli operatori, le equip. Poi sappiamo che ci sono anche dei gemellaggi nati spontaneamente anche al di là di questi canali ufficiali, magari per la conoscenza diretta di alcune persone, di alcuni sacerdoti, gemellaggi che hanno coinvolto singole parrocchie del Veneto con singole parrocchie appunto delle zone terremotate. C'è in fase di progettazione anche una serie di strutture per servizi sociali e caritativi, servizi in risposta alle vecchie e alle nuove povertà, come le chiamiamo noi nella nostra rubrica. Fondamentale sarà anche la progettazione sociale per la ripresa socio-economica del territorio. È sempre attiva la causale terremoto Nord Italia 2012, quindi un versamento tramite la Caritas si può sempre fare, anche se è già passato un anno. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Come dicevo prima, ci sono molte iniziative in programma anche proprio in questi giorni e nelle prossime settimane in occasione del primo anniversario delle scosse, le principali come sapete il 20 e il 29 maggio. La delegazione regionale della Caritas Emilia Romagna ha deciso di rilanciare alcuni eventi, ha pensato anche a una proposta che potesse ricordare anche in positivo i giorni successivi alle scosse del 2012. Infatti le parrocchie e le Caritas parrocchiali sono invitate a organizzare in modo semplice dei piccoli ritrovi per condividere un pasto proprio in occasione di questi giorni, per ricordare i momenti nei quali le persone erano costrette a rimanere fuori dalle proprie case e strutture di ritrovo, momenti nei quali viene detto abbiamo ritrovato, pur nell'ansia del momento, il piacere dello stare insieme e la solidarietà reciproca. E appunto c'è la proposta di un pranzo, una cena, una merenda, un appuntamento conviviale in cui stare insieme nei condomini, nei quartieri, nelle parrocchie per ribadire che insieme si può fare molto, oppure una preghiera singolarmente o a livello comunitario da fare magari il giorno 20 o il giorno 29 maggio alle 13 o alle 21 come momento di comunione e ricordo delle vittime del terremoto e a sostegno della fede. È una preghiera che si trova sul sito ufficiale caritasitaliana.it, è molto breve quindi ve la posso citare. O Dio creatore, noi crediamo che tu sei nostro padre, che ci vuoi bene anche se la terra trema e le nostre comunità sono state sconvolte. Apri il cuore di molti nostri fratelli e la generosità e l'aiuto, dona a noi la forza e il coraggio necessari per la ricostruzione e l'amore per non abbandonare chi è rimasto senza nessuno. Così liberati dal pericolo è iniziata una vita nuova, cantiamo la tua lode. Bella iniziativa, semplice, ma anche la preghiera unisce certamente, unisce anche a distanza. Alcuni incontri di questi che vi dicevo, di questi sollecitati, sono già stati fatti, altri sono in programma nei prossimi giorni. Ad esempio, domenica 26, la diocesi di Bologna propone una santa messa nel parco dei Frati della Rocca con il vicario episcopale per il settore carità, signor Antonio Allori, e la vicinanza evidentemente è sempre forte, sempre vicina nonostante i chilometri, e rafforzata certamente dall'amicizia e anche dai sentimenti religiosi che ci uniscono, che uniscono queste terre del Veneto, quelle terremotate, anche quelle non terremotate, che se la scossa l'abbiamo sentita anche nelle zone centro-settentrionali della nostra regione. Dunque un invito ulteriore a farsi presenti anche semplicemente con il pensiero, con la vicinanza spirituale o, come dicevo prima, anche o ancora con un'offerta. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.